che ti ami e vento ed entro ami

sapevo. Or son sei mesi che mio padre morì. Sola ricchezza mia per la madre e per i fratelli all'animale. L'eredità paterna. Una vasna di banditi la strada. Lo cercai. Era quello il mio destino. Ma un giorno m'ho incontrata. Ho sognato d'andarmene con voi. Thank you.

Che deve essere preso vivo! Dove? Sempre, sì, sempre, che di qua, che di qua! Dove? Invece ad amare, ucciso il vostro signore, se questi no, non dove tu ci resti. polca, quella notte venisti per rubare. Con gli occhi sorriso di vigna riservati. Che lei si rubato. Mi ha rubato. Con le tue ragazze. Risparmiate lo scherno della morte, non mi metto pensiero, e ben voi tutti lo sapete, visto sciogliete un braccio, mi scossa di mia mano. D'altro voglio parlarvi, io torni e passeranno i giorni. ingrandire. Là, andiamo. Perdonerete tutti. No. necessario, troppo le dobbiamo. E tu, mio trino, poi resigna e me. E giri anche tu, non possiamo. Non possiamo. E nel suo dritto e partiva è necessario. Vorrà. Il tuo mondo. I padroni siamo noi. Andiamo. Il tuo mondo. Andiamo, ragazzi. È necessario. Non lo vorrei. 今天的歌舞剧场就到这里，感谢您的收听，欢迎关注北京音乐广播古典有限频道下面的精彩节目。